La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, Kappa e Drago discutono di Polo Nord e Polo Sud. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Kappa. Kappa. Cosa c'è? Cosa stai ascoltando? Sta zitto un attimo, Drago. È importante quello che dice. Noi non lo capiamo, ma sono convinto che abbia una grande importanza. Certo, magari se sei. Lo capissimo, potremmo trovare una chiave del perché siamo qui e potremmo trovare una chiave della porta d'uscita. Potremmo andarcene di qui e tornare alla vita normale. Potremmo trovare una chiave del perché siamo qui sulla Terra. Sì, va bene, magari. Drago. Non è necessario che tu metaforizzi ogni volta che... Kappa, che ora è? What time is it? È mica mezzanotte. Sì, Drago, è mezzanotte. It's midnight. Io comincio a stancarmi del buio, a dir la verità. Vabbè, Drago, è mezzanotte, non puoi pretendere ci sia il sole. A meno di non trovarsi al Polo Nord. O al Polo Sud. Mentre al Polo Nord è sempre giorno, al Polo Sud è sempre notte e viceversa. Bravo, va bene, lo so. Dunque, visto che qui è sempre mezzanotte, vuol dire che o siamo al Polo Nord o al Polo Sud. Polo Nord o Polo Sud? Dipende. Come dipende? Dipende da cosa? Dalla stagione. Dalla stagione, in che mese siamo? Dipende. Come dipende? Dipende se siamo in diretta o in podcast. Il giorno in cui mi scarico gratuite dalla rete le scarpe da ginnastica che tanto a me mi piacciono, sarò contento anch'io, amico, che ti scarichi gratuita dalla rete la mia musica fantastica, fin tanto che lo scambio equo non avviene. Io sono parte lesa di questa innovazione. Tu ascolti la mia musica e io cammino scalzo. Saluta Gates e Jobs e digli che li ammazzo. La fabbrica di polli. Oh, ecco qua il verbale. Finalmente è arrivato il verbale di sta benedetta riunione. Amministratore delegato, buongiorno. Buonasera, buonanotte. Buonanotte. Qui è sempre mezzanotte. Buonanotte. Fa lavoro anche a mezzanotte. Sto leggendo il verbale della riunione di oggi. Com'è andata? È andata bene, però vedo che qui nel verbale, no, queste cose che sono scritte qui non vanno bene. Inizio riunione 10:45. Primo argomento: scelta dei coprisedili per le auto aziendali. D'estate non possiamo stare guidare per ore sui sedili di pelle che scaldano da morire. I coprisedili, insomma, è una vita d'inferno. Appalto importante. Sono tanti sì, soldi. Non capisco qua però perché hanno scritto effettivamente che sì, c'erano questi coprisedili da ordinare, sono stati ordinati. Argomento chiuso alle 13:22. Sì, 2:30. Ma lei non c'è. No, aspetta, facciamo una cosa, perché poi questi verbali qui li leggono, vediamo qua, mettiamo che abbiamo finito abbiamo iniziato alle 10:45, abbiamo iniziato finito alle 11. No, 11, come mettiamo... scusi, amministratore delegato. Vabbè, i verbali mettiamo si leggono. Che... Ma no, i verbali si leggono prima per questo, dai, insomma, parliamoci chiaro, cioè, non è che uno si... Sì, riunioni vanno come vanno, insomma, è chiaro, però poi sulla carta scritta mano, se ne mette. E quindi robe... mettiamo che? Ma sì. Vale, si chiude discussione al primo punto, 20 minuti più che sufficiente. È vero che ci abbiamo messo 3 ore, però mettiamo. Ma poi come mettiamo? Anche nei bilanci mettiamo che. Cioè, com'è? No. Mettiamo che si sì. Fa. Cosa ridi? Mettiamo perché, che. Ma non è vero, mettiamo. No, scriviamo quello che è giusto, insomma, che è ragionevole c'è. Scrivere. Ma sì, allora è fiction. Cioè, no, esiste. Fiction. No, come no? Allora, si ha in prima categoria. Esiste questa. Una realtà ed esiste poi la rappresentazione della realtà scritta sulla carta, nei verbali, che deve avere una sua estetica, esattamente come il vestito dell'amministratore delegato. Potete dire, l'amministratore delegato si veste, eccetera, così, e poi dopo il verbale fa schifo. No, il verbale deve essere un verbale schifo, scritto cioè, bene. capito? Basta. Allora. Poi, comunque, insomma, non è che si può discutere per ore e ore di queste cose. Ho deciso che è così, sono pagato per decidere, si fa così e basta. God save our chick. Cose che sappiamo sulla fabbrica di polli. Estratto numero uno. La fabbrica di polli è una grande industria dell'imbroglio. La fabbrica di polli è un'associazione a rincoglionire. La fabbrica di polli provoca la sindrome di Stoccolma. La fabbrica di polli è una loggia massonica. La fabbrica di polli esisteva anche nell'antichità. La fabbrica di polli manda in giro per il mondo polli infetti che creano dipendenza da pollo. La fabbrica di polli ammorba tutti con i suoi scarichi tossici. La fabbrica di polli sperimenta incroci contro natura. Basta! La fabbrica di polli non chiude mai. La fabbrica di polli. Vieni qui. Ma capo, lascia stare la gallina, dai, ma lasciala stare. Ma poverina, cosa ha fatto? Ma vergogna. Una pollastrella, drago, gli incroci contro natura sono un fenomeno molto interessante. Ah, beh, sì. Si verificano in ogni campo dell'attività umana, se vai a vedere. Incroci contro natura, tipo te che vai dietro a una gallina, o tipo il coniglio con le orecchie da elefante? No, che... quello è un incrocio contro natura biologico. Okay. Ma ci possono essere infiniti incroci contro natura. Tipo? L'incrocio contro natura finanziario, ad esempio, quando un partito politico si interessa in modo molto sospetto a offerte pubbliche d'appalto che riguardano, ad esempio, la scalata a una banca. Quello è un incrocio contro natura finanziario, che però avviene con il consenso delle parti in causa. Quindi non si spiega bene il concetto così. Non sto capendo niente, cosa stai dicendo? Drago, sto improvvisando, aspetta un attimo, adesso mi viene un esempio migliore. Allora... Ecco, per esempio, quando stai facendo dei lavori in casa e chiami tutti gli operai separatamente, quindi l'idraulico, buongiorno, l'elettricista, salve, l'imbianchino, sono qui, il muratore, cosa faccio, eccetera, e poi gli affianchi un pollo architetto, buongiorno, sono 3.000 euro senza fattura, che però loro non conoscono, col compito di coordinare i lavori. Allora voi dovete fare questo, voi dovete fare quest'altro. Ecco, questo è un incrocio contro natura che può generare catastrofi irreparabili. Beh, certo, quelli sono artigiani, sanno già cosa fare, arriva un architetto. Insomma, Oppure, non so, devi mettere l'aria condizionata in casa. Cosa fai? Chiamo un condizionatorista. Aggressivo. Io? Ma no, drago, il condizionatorista. Ma cosa? Cosa stai dicendo? Drago, i condizionatoristi sono di norma tutti aggressivi. Ah. Certo, fa parte del marketing. Non sapevo. Allora, tu fai così, tu chiami un condizionatorista aggressivo e costui ti consiglierà una marca di condizionatori, che non è la migliore che c'è, è semplicemente quella che paga di più il condizionatorista aggressivo affinché spinga per installare quei particolari condizionatori, ok? Ok. Il tutto aggressivamente. Allora, se sei un polo masochista, cosa fai? Fai un incrocio contro natura, e cioè dici una cosa del tipo: io vorrei un'altra marca di condizionatori perché un mio amico me lo vende con uno sconto del 35% sul prezzo già scontato e quindi... Ecco, se tu dici una frase del genere, i casi sono due. Uno, il condizionatorista aggressivo diventa ancora più aggressivo, ci litighi, lo mandi a c***o e ne cerchi un altro uguale a quello. Due, il condizionatorista aggressivo fa finta di niente e ti dice che per lui non ci sono problemi. Non ci sono problemi, vero? Non è un problema, poi se ci fossero problemi non è che è un mio problema. Come, ma c'è problema. Quali problemi? No, no, voglio dire, non è un problema. Le ho detto che non è un problema. Va bene, calma. Lei sa mettere il condizionatore? No, non è un problema. Se lei vuole mettere un condizionatore, non è un problema. Io le metto un altro condizionatore, poi se c'è un problema non è un mio problema. Se c'è qualche problema, dall'inizio c'era il problema. Da 100 anni c'era problemi. Se andiamo a vedere la storia vera, in qualsiasi paese c'era la problemi e sono saltate. Sono uscita a salvare i problemi per andare più bello. La fabbrica di polli produce, non chiude, la fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli. Warum Männer?